Figuriamoci se avesse la cattiveria, sarebbe a 20 punti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il pallone ancora lui, Evra subentra, tentativo da fuori, e c'è gol incredibile della Juventus, ha colpito Tevez con un destro in conta. Io penso che la squadra ha giocato una grande partita e è lo importante, no? Io Pereira lo va a cercare in profondità, Tevez controlla, destro secco, rete, e rete, ancora la Pasche, doppietta per lui. Yo sono contento porque he ayudado a mi squadra a pasar a cuarto de la Champions, ¿no? Va incontro Marchisi, è partito Pereira, tocco per lui, attenzione, regolare Tevez, tutto solo Tevez, Tevez per Morata, e rete, Tevez e Morata. È una vittoria incredibile, un sapore bellissimo, i tifosi possono stare tranquilli perché mi sto trovando benissimo qui, ringrazio a loro, a questa squadra, ai miei compagni, allo staff, a tutti, sono felice qui, non posso mettere un'altra cosa nella mia testa. Questo mi fa piacere, però credo che il risultato di stasera sia un lavoro fatto tutti insieme, con la società, con i ragazzi che stasera hanno giocato una partita importante sotto il piano tattico, sotto il piano tecnico. Non abbiamo concesso niente al Borussia in due partite, credo che l'unica volta che hanno tirato in porta è stata quando abbiamo preso gol a Torino, quindi credo che ci sia merito di tutti. Gufi e cornacchie sono stati spolverati via dalla tempesta di una meravigliosa Juventus e di un mostruoso Carlitos Tevez. Se vuoi vi faccio sentire il verso per cui stasera noi scegliamo la partita. E certo che voglio sentire. Com'è? Cioè per 90 più supplementari fate così? Sì. Non basterà fare solo il gufo, bisogna avere ancora altro volatile. E volevo aggiungere la cornacchia. La cornacchia? Sì, la cornacchia, perché ormai questi qua si sono imparati che col gufo non si fa niente. Bisogna aggiungere un altro verso, un verso nuovo. Qual è il verso? Della cornacchia. Me lo faccia. Ma certo. Questo ieri, poi, ma sarà magari per la prossima volta, ragazzi. Poi stasera c'è l'Europa League e sarà la volta di altri volatili. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, Pierluigi Pardo, ciao! Oh, come va? Benissimo, come la Juventus, irresistibile. Irresistibile, grandiosa. Credo che la notte di ieri abbia due facce, due protagonisti assoluti, che sono Tevez e Allegri, perché quella di ieri è una laurea europea per tutti e due. Allegri credo che si sia definitivamente tolto qualsiasi, no, qualsiasi patente, qualsiasi dubbio, ci siamo tolti qualsiasi dubbio. Io onestamente, ci sono registrazioni, non ne ho mai avuti molti, sulla qualità straordinaria di questo allenatore, comunque molto buona di questo allenatore. E non era lui evidentemente il problema al Milan, mi sembra abbastanza evidente, sì. E pensando, la notte di ieri comunque andrà a finire la Champions, secondo me adesso può diventare anche piuttosto interessante, poi non so se per arrivare fino in fondo, ma per continuare a togliersi soddisfazioni ci sono le condizioni ideali. Io credo che comunque andrà a finire, penso che la serata di ieri rimarrà. La serata di ieri, certo, è certo una pagina importante per la Juve, per il calcio italiano, perché non solo la Juve ha passato il turno, ma ha vinto in una maniera straordinaria. Non capita spesso di vedere comunque una squadra importante come il Borussia Dortmund perdere 3-0 in casa, nel suo stadio, no? Non c'è dubbio. Poi so benissimo che ci sono quelli che diranno che è decima, dodicesima in campionato in Germania, che è, però è sempre, valgono poco. Anche una squadra che ha vinto il girone davanti all'Arsenal, quindi non è una grande impresa. Poi è una squadra che 2 anni fa ha fatto la finale di Champions League con un grande allenatore, ora in difficoltà, in crisi, con grandi interpreti che ieri sera sono stati annichiliti. Questa sera c'è anche l'Europa League, diceva Europoto, magari stasera si scateneranno altri volatili, altri gufi, non lo so. 800240024 e ovviamente derby italiano, Roma-Fiorentina, partita di ritorno. Altro allenatore in difficoltà, Garcia. Io non sarò mai un peso perché, come ho detto, ho imparato a innamorarmi di questa squadra, di questa Roma. E, giorno dove sentirò che non sono più utile o non sono più una plusvalenza al club per ottenere vittorie, risultati, trofei, perché sono venuto per questo, allora il secondo dopo mi farò da parte. Intanto a Roma si comincia a parlare di Montella, che siederà stasera ovviamente sull'altra panchina. Ricordiamo che chi ha il biglietto della gara ai musei gratis oggi a Roma, e iniziativa a cui teniamo molto. Ci teniamo molto, e fammi aggiungere una cosa dopo quello che è successo ieri, ovviamente in un'altra nazione, sì, ma che ha coinvolto l'Italia. Se possibile ci teniamo ancora di più, perché poi certamente la cosa peggiore che può succedere è la paura, no? La cosa peggiore che può succedere è snaturare il proprio modo di vivere, e invece con tutti i suoi difetti e tutte le sue difficoltà e tutte le sue miserie, questo tipo di mondo ha la bellezza della libertà, che poi quindi è una libertà relativa, perché non puoi fare esattamente tutto quello che vorresti. Proprio nei musei aspettiamo una risposta ancora più forte. È una libertà piena di ingiustizie, piena di problemi, piena di gente in crisi, piena di difficoltà, però è una libertà, è comunque la possibilità di vivere più o meno come vuoi, quantomeno di provare a cambiare la tua vita e cercare di renderla migliore, e anche appunto di farti una passeggiata oggi col biglietto della partita, appunto paralmente, per andare a ammirare i tesori e la bellezza di oggi di Roma, la settimana fa di Firenze. Certo, e anzi facciamo così, invitiamo anche a segnalarci la vostra presenza attraverso Twitter @ tutti convocati. Dopo il traffico torniamo. Tutti giù dal trespoli, Gufi! Ah, la Juve a Borussia sarà dura. Ah, non può andare avanti in Champions. Ah, come mai vince il campionato e in Champions non va avanti? Che strage nei boschi dei gufi! Tutti convocati. Noi siamo grati a Conte e a quello che ha fatto nei 3 anni con la Juve, però vogliamo dimostrare a tutti, anche a noi stessi, che siamo una grande squadra, che questo progetto non si è fermato, ma che deve crescere ancora. Questo era Chiellini che manda un pensiero al suo ex allenatore. Sul monitor dei messaggi è già in corso la diatriba tra Guelfi e Ghibellini, Juventini e Anti, ma vi invito a parlare, i messaggi non sono tutti leggibili, anzi quasi nessuno. 800240024 invece per la vostra voce. Marco da Ferrara, sempre grazie. Barbara Berlusconi: senza di lei Tevez non sarebbe alla Juventus, oppure il Borussia non doveva indossare il giallo ma il bianco, più adatto ai fantasmi. Con Pierluigi Pardo collegato con noi salutiamo Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport, e nostro amico. Ciao Carlo, ciao Pier, come va? Beh, insomma, ieri ce l'hanno fatta anche comodo, ho potuto cominciare a scrivere verso il 25esimo del secondo tempo, che è una meraviglia in certe serate. Sì, confermato comunque il fatto che la Juventus negli ultimi 2 mesi di campionato ha giochicchiato, giocherellato. Con Conte avrebbe avuto anche 20 punti in più, più 50 sulla Roma, più 60 sul Napoli, ma forse non avrebbe giocato questa partita, mi viene da dire, da Milan d'altri tempi. Sì, ma direi tutte e due, perché anche all'andata aveva giocato una bellissima partita la Juventus. Ha giocato con, tu richiami al Milan di altri tempi, che io ti dico aspettiamo ancora. Sì, ancora, no, perché sto parlando solo di questa partita. Lo faceva il Bernabeu, questa cosa qui, e quindi aspettiamo ancora, però la strada è quella. Cioè, la strada è la personalità. Questa squadra ha acquisito una personalità che fa sì che non gli tremino più le gambe davanti a situazioni, a stadi molto importanti come Dortmund, a squadre che probabilmente non sono più da finale di Champions come 2 anni fa, hanno vissuto una stagione particolare, ma è sempre ricca di, eccellenti giocatori, e il Borussia Dortmund, e quindi il fatto che ne abbia disposto su 180 minuti segnando 5 gol e subendone uno per uno scivolone di Chiellini, ti dice che la Juventus è stata assolutamente superiore, ma perché ha voluto essere superiore, perché ha giocato a 4 sia l'andata che al ritorno, anche se c'era la tentazione una volta rientrato Barzagli, ha giocato con tutte le cose necessarie per fare bene in Europa, e che secondo me l'anno scorso c'era questo inseguimento, sì, al record, per esempio, loro hanno perso l'Europa League perché volevano fare il record dei 102 punti. Sì, il che è inspiegabile, il che abbiamo sempre detto inspiegabile. Poi aggiungo, non alla Juve, non sono tremate le gambe nemmeno di fronte alla pressione di un risultato comunque da conquistare, perché è una squadra che aveva quantomeno questo traguardo dei quarti di finale nel mirino, e a differenza della Roma, dell'avventura della Roma in Champions, questa pressione era tanta, Pierluigi. C'è Irene che ieri sera avrebbe voluto essere sul divano a fianco di Conte. Ma sì, è una suggestione maliziosa, però insomma io dico anche una cosa, che poi chiaramente c'è sempre la tendenza, molto bene, a fare i confronti, i paragoni. Conte ha fatto 3 anni importantissimi che hanno contribuito a costruire anche questa Juve, cioè io non vedo tutto in termini antagonistici. È evidente, l'abbiamo detto dall'inizio, che la Juve di Allegri ha avuto delle caratteristiche diverse rispetto a quella di Conte, dei pregi e dei difetti. La Juve di Conte probabilmente non avrebbe pareggiato certe partite, pensa a Cesena, pensa a Udine, in qualche circostanza probabilmente avrebbe trovato un gol all'ultimo respiro o un maggiore livello di concentrazione, forse la Juve di Conte una serata come quella di ieri non sarebbe stata capace di farla. Però è anche vero che Conte ha lavorato per 3 anni, ha sicuramente usurato dal punto di vista fisico, ma ha anche forzato invece dal punto di vista psicologico questa squadra. Insomma, sì, Pogba è quello che è oggi, il merito anche di Antonio Conte. No, ma nessuno vuole togliere i meriti, però però è lui che ha detto, però questa Juventus avesse avuto la cattiveria del ristorante a 10 euro. No, quella è una battuta. È una battuta che in qualche modo ha segnato anche il suo destino. Sì, c'è anche da dire, scusami, che quest'anno Allegri si è trovato di fronte di fatto degli interlocutori meno credibili per il campionato. Cioè, se la Roma e il Napoli avessero fatto il loro dovere, se avessero mantenuto un andamento un pochino più regolare, oggi probabilmente la Juve non avrebbe 14 punti di vantaggio, quindi forse avrebbe avuto anche più pressione, no? Sì. Ma lei ha fatto splendidamente tutto. Io lo consideravo bravo a metà luglio, quando c'era il panico fra i tifosi della Juve, perché comunque Allegri è un allenatore bravo, l'ha sempre dimostrato, e mi sembra evidente che appunto non fosse colpa sua, e adesso sta facendo cose molto importanti. Credo la strada è quella del gioco. Credo che sia la stagione della sua consacrazione. E poi Paolo Condò, in questo momento Tevez, 6 gol in 8 partite, capocannoniere della Champions, il solito Ronaldo, stesso numero di partite, 8 gol, e è uno dei più letali d'Europa. Tu oggi scrivi: è il suo miglior calcio, il miglior calcio della sua carriera. Non ha mai giocato così, non ha mai giocato così bene Tevez. È veramente diventato un grande giocatore. Io Tevez, lo confesso, l'avevo sempre considerato un Ciccio Graziani d'Argentina, nel senso che era il giocatore amato dalle folle, così, dalle folle tifose di Bocca Buona, perché si sfiancava a rincorrere tutti i palloni, anche quelli impossibili e quindi inutili. Alla Juventus lui ha preso la leadership con grandissima naturalezza, e credo che Conte l'anno scorso e Allegri quest'anno siano stati preziosi per ripulirlo da tutto ciò che di eccessivo faceva, andandosi a stancare e quindi perdendo lucidità, e non è casuale che sia diventato anche un grandissimo uomo gol in queste 2 stagioni, l'anno scorso in Italia e quest'anno anche in Europa. Questo è il miglior Tevez di sempre. Questo è il miglior Tevez di sempre. Spero tanto che resti, che effettivamente compia il suo contratto e rimanga ancora il prossimo anno, perché sarebbe un peccato andare a buttare via questo suo momento di grazia, queste sue stagioni. Beh, questo è ormai lungo momento di grazia. No, queste sue stagioni. Tevez alla Juventus sta realizzando, ormai realizzato, ma non ha ancora finito, al 100% le sue potenzialità, che prima, secondo me, erano non sfruttate assolutamente nella loro interezza. Chiedo ancora una cosa a tutti e due, poi Pardo rimane con me, Paolo Condoro lo salutiamo. Ora meglio, un avversario soft, viene in mente il Porto, viene in mente il Monaco, o meglio un Allegri ha parlato, siamo sull'otto volante, vogliamo restarci, meglio qualcosa da brividi, Pier? No, meglio un avversario soft. Ovvio, tanto ovvio. Per essere chiari. Ma sì, meglio il Monaco, secondo meglio me. Meglio il Monaco. Il Porto, ma sì, è ovvio, perché comunque sulle montagne russe, se poi passi il turno col Monaco o col Porto, ci stai anche dopo, intanto fai i cassi, fai i guadagni, vai avanti, cresci il ranking per la Juve, per l'Italia, insomma, dai, dal punto di vista non ci sono dubbi. No, stavo pensando, volevo fare un pensiero statico nei confronti del Milan, mi spiace, però insomma, che Tevez, Pirlo e Allegri potevano essere tutti e tre a Milan oggi, no? Sì. Per motivi diversi non sono lì e poi insomma sono sliding doors del destino e poi segnano la differenza tra chi riesce a vincere e chi invece guarda, ma sono corsi e ricorsi, insomma. Sì, certo, tipo che il Milan hanno vinto in 25 anni più di tutti gli altri, quindi insomma se fanno un ragionamento un pochino più di lungo periodo possono consolarsi. Paolo, io penso che la partita che ci vuole adesso sia la grande partita accessibile e quindi il Paris Saint Germain. Quindi è un pensiero un po' diverso, anche io la penso così. Infatti, voglio la grande partita, quella per la quale non si pensa ad altro per un mese, ma magari non ancora contro Real Madrid, Barcellona o Bayern, contro però il Paris Saint Germain, che oltretutto all'andata non dovrebbe Ibra. Avere Ibra e Verratti, che è molto più importante. L'Atletico Madrid, però attenzione, Allegri in questo è un rabdomante. Aveva detto Borussia Dortmund prima del sorteggio degli ottavi, e Borussia Dortmund è stato, ieri sera ha detto Atletico Madrid, quindi attenzione. Attenzione, chi intervisterai venerdì su Gazza TV? Su Gazza TV c'è un'intervista veramente, non per merito mio, meravigliosa, Elisa Di Francesca, una donna strepitosa. E devo dire che nell'intervista si è data come nessun calciatore ha mai fatto, dal punto di vista proprio dello scoperchiare i suoi sentimenti e del raccontarli, le sue emozioni. Fantastica. Se noi che seguiamo abitualmente il calcio, lo dico a Pierre che ha lo stesso problema mio tante volte, ci trovassimo di fronte a giocatori con la sensibilità e la voglia di raccontarsi che ha avuto Elisa Di Francesca, vinceremo il premio Nobel ogni anno. E invece sarà abbastanza un'utopia. Ci sentiamo dire tante volte si vince e si perde in 11. Si vince e si perde in 11, ogni partita fa storia a sé, esatto. Merito di tutta la squadra. Ci aspettano tutte finali. Grazie Paolo. Ciao Paolo. Tra l'altro l'ho incontrata ieri a Fiumicino con Elisa. Col cartello. Sì. C'era? Sì. Credo il fidanzato col cartello, c'era uno col cartello, ma poi non lo so, magari non è tornata campionessa, presto la ascolteremo. Pier, stai lì che c'è la borsa, non torniamo subito. 800 24 00 24, poi tocca a voi. Sono d'accordo su Tevez, che è un giocatore straordinario, che oltre a livello tecnico è soprattutto un giocatore caratteriale e poi è molto bravo anche a aiutare i compagni a mettersi nelle posizioni giuste a metà campo. Capolavoro di Tevez, spot per noi. Si ricomincia. Tutti convocati. L'entusiasmo c'è, le speranze ci sono e la fiducia in questa squadra c'è. Vi lascio al coro. Tutti a Berlino, allora senza scivolare più. Beh, un'altra volta l'avevamo già sentita dopo Dortmund questa cosa, che sia di buon auspicio. Comunque, ricominciamo con Pierluigi Pardo, con gli ascoltatori, 800 24 00 24, con Daniele da Treviso, che è un massimo esempio di sportività. Da interista, quella di ieri è stata la miglior partita di un'italiana in Europa, le triplette, onore alla Juve, scrive speriamo stasera di commentare grandi imprese. Tu sei a San Siro, serve la remontada. Serve la remontada. Ci credi? Io ci credo. No, ci credo. A parte che c'è una specie di irrazionale, no, che colpisce ogni telecronista, è una sindrome di di megalomania, no? L'illusione di poter fare qualcosa, ovviamente non possiamo fare niente, però comunque quando racconti una partita di una squadra italiana, soprattutto quando c'è una rimonta da fare, no? C'hai un po' di adrenalina perché poi perché vuoi che succeda, e poi chiaramente non è che dipenda. Dipende da me, perché l'unica possibilità sarebbe scendere in campo col Wolfsburg, no, però a parte questo, la partita dell'andata ha detto che l'Inter se la può giocare. Cioè, io devo dire che rispetto al pessimismo che c'era all'inizio, al momento del sorteggio, la partita dell'andata tecnicamente è stata quasi confortante, perché l'Inter non è stata umiliata, ha perso male per degli episodi, quindi io penso che delle speranze ci possano essere. Poi, come dice giustamente Mancini, bisogna fare il 2-0. L'ideale, certo, sarebbe fare il 2-0 all'89esimo. Non è un risultato proprio irrimediabile, no? È anche non pigliare gol, cosa che all'Inter la paura è quella. La paura è quella, che per l'Inter la distrazione più o meno la fa sempre. Speriamo che stasera non succeda, no. Oppure che l'Inter sia talmente straripante davanti da rendere in influenti eventuali errori difensivi. Insomma, allora, 3-1 non è l'Inter Tottenham, fra l'altro, spettacolare di due anni fa. No, è chiaro che era l'avversario, 4-1, però veniva dal 3-0. 3-1 è un risultato giocabile. Sì. Andrea Macerata, buongiorno. Eccomi, presente. Dica. Complimenti, ragazzi. Grazie. Grazie. Allora, io vorrei dire due cose. La prima, io ero un anti Allegri e piano piano mi devo, specialmente dopo ieri sera, mi devo ricredere. Perché è entrato in punta di piedi e ha continuato col modulo di Conte, e poi piano piano ha messo la sua personalità, la sua esperienza, e come ieri sera la Juve con Conte non ci ha mai giocato. Sì. L'ho vista una squadra tonica, l'ho vista brillante, concentrata sul piano fisico, tattico, tecnico. Ho visto una bella Juve che da anni non la vedevo. Mm. E no, la seconda cosa, se mi permette, vorrei ringraziare tutti i gufi. Sì, di e anche le cornacchie. Così, le cornacchie. E a Ciro Ugufo. Giro di continuare Ugufo. Così, che poi le mentine gliele rimedio io. Va bene, ok, sarà okay, recapitato, grazie. Il messaggio a Ciro, che se vuole può tornare, 800240024. Sentiamo anche Domenico da San Marino, quindi andiamo all'estero, giusto Domenico? Esatto, no. Siamo all'estero. Siamo internazionali. In realtà in questo momento sono proprio da voi in Italia. Ecco. La cosa divertente è che avete aperto proprio con una clip sui gufi e sulle cornacchie, e devo dire che, a parte ringraziarli perché a volte portano fortuna, ma è proprio veramente molto divertente vedere come la fantasia e l'intelligenza degli italiani si sviluppi in questi momenti. Sono le cose più fantasiose e ci fanno sorridere, ci fanno amare un po' il calcio con questo campanilismo. Senta, invece, ma stasera ti fa Inter tutte le italiane in blocco, no? Assolutamente sì, assolutamente sì, anche per un discorso di ranking, per un discorso di altre cose, ma proprio perché a volte mi è capitato, guardando le partite, specialmente la partita dell'Inter del 2010 contro il Barcellona, sì, di sentire delle emozioni proprio per l'Inter, di volere che l'Inter vincesse. Questo mi è venuto spontaneo. Wow. Quindi forza squadre italiane. Ma non gufo, però ad oggi fra l'altro siamo secondi del ranking di quest'anno dopo la Spagna. Vediamo avanti sia la Germania che l'Inghilterra con quinti fili di ranking, e vediamo ovviamente come andrà a finire, ma potenzialmente potremmo far molto bene. È chiaro che la situazione dell'andata dell'Europa League non è semplice, perché Inter e Torino sono pesantemente sotto, devono fare un miracolo. Il Napoli è messa bene avanti, di là una esce, una passa, insomma, il rischio che la pattuglia si possa ridurre c'è. La Spagna sicuramente avrà 4 squadre, 3 in Champions e 1 in Europa League. Noi, secondo me, alla fine restiamo l'Inghilterra magari 0, Pier. L'Inghilterra o 0-1, dipende. O 0-1 dipende dall'Everton. Salutiamo un campione del mondo, nostro amico Antonio Cabrini. Sì, sono qua. Ciao Antonio, grazie. Ciao, prego. Io e Pardo stavamo dicendo che una stagione iniziata sotto pessimi auspici per il calcio italiano sta diventando quantomeno interessante. Sì, sicuramente interessante, perché comunque a me non nessuno si aspettava che a livello internazionale andassimo così avanti, perché a prescindere dalla Juventus, che appunto è passato questo turno Champions League, è quello che ha fatto più, tra virgolette, scalpore sono le 5 squadre italiane che sono ancora in lotta, diventeranno 4. Mi auguro che possano rimanere 4, ecco. Comunque che sono ai vertici dell'Europa League, questo è sicuramente un segno importante per il calcio italiano. Ma vuol dire qualcosa di particolare o è casuale, secondo te? Vuol dire, guarda, bisogna rimanere con i piedi per terra. Io credo che non c'è adesso da innalzare più di tanto l'asticella dicendo che siamo diventati molto più bravi degli altri, siamo cresciuti. Probabilmente in questo momento c'è una da parte di certi altri paesi, non c'è più quella crescita esponenziale che c'è stata negli anni passati, come ad esempio gli inglesi e anche in parte i tedeschi. Pier, vuoi chiedere qualcosa a Gabrini? Beh, se ci sono dei tratti, ma tu che conosci ovviamente la Juve dalla storia dei Trapattoni, insomma, se ci sono dei tratti al di là della qualità del gioco di Allegri, innanzitutto capire appunto in termini tattici Allegri che cosa ha portato il diverso rispetto a Conte, nel senso che prima ci stavamo tutto dividendo, sottolineando che magari Conte avrebbe qualche punto in più in classifica, forse in campionato, però forse un'impresa come quella di ieri non lo faceva. E poi capire se ci sono dei tratti invece della storia della Juve, un'impresa come quella di ieri, in termini proprio di ferocia agonistica, di capacità di cogliere l'attimo. Pier, sentiamo la risposta di Cabrini e poi ti richiamiamo perché si sente male. Hai sentito Antonio? Hai capito? Sì, ho capito. La differenza tra i due Juventus, quella di Allegri e di Conte, questo è il fatto di essere per il credo terzo anno di fila in Champions League, anche fatto crescere a livello di mentalità questa squadra. Ecco, non so se poi Conte avrebbe fatto gli stessi risultati di Allegri, però sicuramente una squadra che ha la consapevolezza nel suo DNA che a Torino la società, l'ambiente, sa benissimo che vincere i campionati è bello, però dopo due, tre volte dopo loro la mira si sposta sulla competizione internazionale, quindi questo veramente ha dato ai giocatori anche la consapevolezza di essere più concentrati e soprattutto più determinati in campo internazionale, che poi è fondamentale. E lo stanno dimostrando. Poi dire Conte non avrebbe fatto un risultato del genere, Conte avrebbe vinto più in Italia, avrebbe avuto più punti, quello non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Antonio, ti chiedo un istante di pazienza, anche perché voglio sapere come va il lavoro per te. Traffico, torniamo subito. Volevo chiedervi se non era meglio che andava a pascere pecore l'allenatore della Juve. Convocati. Antonio Cabrini, volevo chiedere come va il lavoro. Mio? Mm-hmm. sta andando bene, cioè direi che siamo in fase di evoluzione. Ti è passata l'amarezza? Sì, l'amarezza della qualificazione mondiale mi è passata. abbiamo praticamente rimpastato un po' tutto, nuove ragazze che arrivano alla ribalta della nazionale A, e quindi si ricomincia aspettando appunto a settembre del prossimo settembre le qualificazioni degli europei. Ma ce l'hai un grande talento? Esiste? Un grande talento? Ma ci sono delle discrete ragazze che a livello tecnico sono brave, talento puro sicuramente, che ha qualcosa un po' più delle compagne sicuramente. La Gabbiadini sicuramente ha delle qualità importanti, ecco, da grande giocatrice internazionale. È un nome che va di moda, Gabbiadini, sono bravissimi, una coppia di fratello e sorella. Non so se c'è una nella storia del calcio, se c'è un'altra coppia così, o se c'è stata un'altra coppia così, perché insomma lui è molto forte, lui non, insomma, Manolo non si, però è ancora più forte, nel senso che lei è non voglio fare nomi, ma è Totti, è Del Piero, è a quel livello lì, no? Cioè, alla Maldini, entrerà nella storia del calcio femminile. Beh, credo di sì. Ma almeno italiano, ma credo anche europeo. Quindi, insomma, credo di sì. Diciamo, quello scarso della famiglia sei tu, ma no. Quello scarso della famiglia è Manolo, che pure è giocatore fondamentale del Napoli in questo momento. Antonio, ti chiedo ancora questo: per la Juventus, adesso l'ho chiesto a Pardo, l'ho chiesto a Curro prima. Meglio sorteggio soft o meglio, come dice Allegri, stare in alto sul lotto volante, magari provare sull'onda dell'emozione a prendere una big? No, io sono dell'avviso che comunque meglio andare avanti. Ma molto grande, sì, no, nel senso che ci sono due squadre che potrebbero essere, non dico alla portata, però è chiaro che quando arrivi a questi livelli poi alla portata non c'è niente, quindi te la giochi con tutte alla pari. Però se dovesse capitare il Monaco o il Porto potreste avere delle migliori opportunità. È chiaro che se cominci a cercare Barcellona e Bayern, o Real, che pure in momento di diventa duretta. Sì, ma Pardo ha già messo sul navigatore Monte Carlo, quindi ha già messo Monte Carlo sul navigatore. Grazie Antonio. Grazie mille. Ciao Antonio Gabrini. Messo Monte Carlo sul navigatore. Io voto io metterei Parigi. Vado con Curro a Parigi. Tu vai a Monte Carlo e vediamo chi si becca. Io scegliere l'apporto, che è forse la mia città europea. So che sembro pazzo dirlo, ma c'è stato, sa che è bellissima. Uh-huh. Porto è la mia passione. Se facciamo un discorso turistico, se facciamo un discorso anche tecnico, calcistico, facciamo un discorso calcistico, io penso che Monte Carlo e Porto siano i migliori, ma ci sono grandissimi dubbi. Il Real Madrid in questo momento sembra un pochino dietro a Barcellona e Bayern, ma non dimentichiamoci che si gioca fra 4 settimane. No, meglio lasciarlo stare al Real. Tutto potrebbe essere diverso, meglio lasciarlo stare. Paris Saint Germain, ma perché devi andare a Parigi? Parigi ci vai per la settimana della moda, ci vai per vedere il Louvre, per rimanere in tema di musei. Però Paris Saint Germain senza Ibra e Verratti. Sono quelle belle cose che si dicono. Allegri ha fatto bene a dirlo. Voglio un grande avversario, sentire l'adrenalina, gli stimoli. C'è bisogno. La puoi affrontare il turno finale. In semifinale, una meraviglia. Una meraviglia, semifinale, la grande avversaria, una meraviglia. Enrico Siena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, dunque, io sono uno dei gufi che ha tifato contro, come tutti gli altri tifosi quando non gioca la propria squadra. Volevo solo ricordare a quel tifoso juventino che ha detto tutti gufi sopra sotto, la guardiamo noi. Siccome so di Siena, e chi arriva secondo al palio e lo furgano. E lo purgano. Lo ricordi, perché arrivare secondi in Coppa dei Campioni è la più grande delusione che un tifoso può avere. Loro l'hanno già avuta parecchie volte e noi, i gufi, abbiamo avuto un godimento grosso. Quindi io li auguro con tutto il cuore, gioco benissimo, di andare avanti e perdere la finale, perché è una delle più grosse, dei più grossi godimenti che può succedere a un tifoso che tifa oltre la Juve. Attenzione, ci è andato in punta di penna meravigliosamente Enrico, la sua toscanità. Però io dico che in realtà da qualche anno è un po' cambiato, nel senso che da quando il calcio è diventato drammaticamente, o felicemente fate voi, business, ogni turno è importante. Quindi è chiaro che dal punto di vista dei tifosi, degli spottoni, ci mancherebbe altro, insomma, ricordi il tifoso della Juve, Magath, Mijatovic, certo, non lo fai soffrire. Però negli ultimi anni ogni turno in cui vai avanti significa soldi, significa incassi, insomma, poi alla fine è chiaro che nessun dirigente della Juve oggi firmerebbe di perdere la finale, perché è un dolore enorme. No, però tutti firmerebbero col sangue di correre quel rischio. Però da un punto di vista razionale, capito? Si è fatto altri 20-25 milioni, che significano magari comprare un nuovo top player, quindi attenzione. Detto questo, poi è chiaro che qui non parliamo di soldi, il tifoso parlava di sentimenti, di emozioni, di sfottò, e quindi è un'altra cosa. Città, ecco. Diciamo che comunque tutti gli juventini del mondo oggi firmerebbero in qualunque modo per correre quel rischio lì a Berlino, quella sera. Ciao Pier. buona telecronaca. Ci sentiamo grazie. Stasera con Intel Wolfsburg, speriamo nella remontata. Ecco, speriamo che succeda. Ciao. Mauro D'Ancona, ce la faccio, ragazzi? Mauro, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Io ho solo una piccola constatazione. Tanto sono, premetto, sono un estimatore di Allegri, ma volevo far presente anche che una partita del genere Conte la disputò a Madrid contro il Real e non a caso giocando a 4 dietro 4-3-3. Io c'ero e posso dire che si respirava proprio nell'aria il gol e l'ottima prestazione della squadra. Poi si è un po' persa con l'espulsione, comunque l'ingenuità, un rigore e così l'ingenuità si è fatto Chiellini. Sì. Ci ha giocato solo quella volta così a 4 la Juventus e ricordo bene, sì, e Pirlo uscì anche tra gli applausi. Vero Mauro, ce la ricordiamo bene tutti, era un'altra Juventus, era un'altra storia, ma era anche probabilmente un altro Real Madrid. In questo momento meglio evitarlo, non so, prima di Berlino, comunque certamente prima della semifinale. Real Madrid che rimane dal punto di vista dell'organico, secondo me, insieme al Bayern di Monaco, la squadra più forte del mondo. Ci sentiamo dopo il GR. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Dice Mino Raiola all'Equipe a proposito di Pogba: se un altro club lo vuole si faccia avanti e non si parlerà solo di soldi. Paul andrà dove si sentirà bene e felice. Qualunque sia il club avrà successo. Inizierò a pensare che il Paris Saint Germain crede in Pogba quando ci saranno cose concrete. Il Real ha l'abitudine di comprare i giocatori come fazzoletti usa e getta, ma noi non vogliamo un club così, ne vogliamo uno che creda nel potenziale di Paul. Questo dice Raiola. Intanto Pogba speriamo che rientri presto, si parla di stiramento, non ci sono notizie ufficiali sulle sue condizioni, credo che verranno accertate oggi. Marco Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Io chiamavo per motivi che sì, trasversalmente hanno a che fare col calcio professionistico, perché sera c'era Juventus, sì. Borussia Dortmund. Io da anni, avendo vissuto in Germania per tanti anni, avendo la passione del calcio giovanile, organizzo un torneo di calcio particolare, al quale tra poco parteciperanno anche Juventus e Borussia Dortmund, categoria under 13. Sì. E quindi è una manifestazione particolarissima che avvicina il mondo del calcio professionistico e giovanile, comunque italiano e tedesco. E, è bello vedere anche a quell'età quelle maglie, quei ragazzini più gli uni contro gli altri. Non c'è dubbio. È stata una bellissima partita e in piccolo verrà poi riproposta anche durante questo torneo. Allora in bocca al lupo per il torneo, che sarà dove? Sarà in provincia di Bergamo, Grumello del Monte, si chiama Italo-Tedesco. Le dico le squadre, giusto per farvi un'idea. Ci sarà Juventus, Atalanta, Udinese, Parma, povero Parma, purtroppo, Chievo, Amburgo, Borussia Dortmund, Mainz, Colonia, Werder Brema e Lipsia. Però, fate le cose in grande. In bocca al lupo, grazie Marco, in bocca al lupo. Davide da Pisa, buongiorno. Ciao, grazie per la convocazione. A proposito, comunque volevo sottolineare, lo hanno scritto in molti, scusa Davide, la sportività ieri di Klopp, che pare sia la fine della sua avventura fisiologicamente al Borussia Dortmund. Io spero davvero di vedere un campionato italiano. Si legge di interessamenti del Milan, del Napoli, della Roma. Vediamo cosa c'è di concreto. Ieri si è comportato in maniera estremamente signorile, abbracciando Allegri con grande trasporto e poi dichiarando: niente da discutere, questi sono più forti di noi, non siamo attrezzati per competere con loro. E c'è anche un tweet del club del Borussia Dortmund di oggi che fa gli in bocca al lupo alla Juventus per il campionato e per il futuro in Champions League. Direi che così ci si comporta. Davide, buongiorno, dica. Ciao ancora. Mi unisco al tuo applauso a Klopp. Spero che se dovesse arrivare in Italia non si rovini come è successo a Garcia, ma questo è un altro discorso. Beh, rovinarsi tanto, adesso vediamo. Va bene. Ora vediamo. Il mio altro allenatore che appunto volevo applaudire è ovviamente Allegri. Già questi microfoni, per così dire, gli avevo fatto i miei complimenti dopo il superamento della fase a gironi, quindi ancora di più oggi. Lo abbraccio fortissimo e niente, volevo però soltanto ricordarci, in questo semestre per la grandezza di Allegri, e spero che così continueremo. C'è stato, ripensavo, parlavo con mio cognato che è giovane perché è nato nel 1993, gli dicevo, io ne ho 35 di anni ma comunque mi ricordo bene, c'è stato un momento in cui quasi quasi la Coppa dei Campioni fino ai quarti neanche la guardavamo, perché tanto la Juve era già in finale, insomma. E ora invece il mio cognato, appunto, che invece per la prima volta trepidava per questo evento di ieri sera. Niente, ecco, spero che questo sia il viatico soprattutto psicologico per riprendere quella consapevolezza che la Juve deve adesso, avere. Adesso insomma, vediamo chi si prende come avversario, poi, e poi ci ragioniamo sopra. Comunque, Davide, sono d'accordo sul fatto, ma l'ho detto molte volte, che Allegri stia vivendo la stagione della sua consacrazione quest'anno. Ha vinto lo scudetto con il Milan, e lo sappiamo. Insomma, quello che ha fatto lo conosciamo. Però in questa stagione, per l'intelligenza con cui ha gestito, l'abilità anche tecnica con cui ha gestito questa avventura della Juventus, secondo me è quella che davvero la stagione della sua consacrazione. Europa League, voci della vigilia, poi abbiamo già un ospite. Ma penso che mi conoscete un po', quando le cose andavano bene, non parlo dell'anno scorso, ma parlo di quest'anno, i primi sei mesi, io sono uno che non cado mai nell'euforia e al contrario non cado mai nel pessimismo e nel catastrofismo. Io sono sempre misurato, per questo che sono abbastanza tranquillo, sereno, perché dopo la pioggia viene il sole. Credo invece, per come le ho viste e per come conosco alcuni di loro, che la Roma dispone di grandissimi calciatori, infatti sono sempre secondo in classifica e dispone di grandissimi calciatori anche sul piano morale, quindi non è assolutamente vero questo, non credo a questo e credo molto nell'orgoglio dei giocatori della Roma, purtroppo, e noi dovremmo essere bravi a preparare la nostra partita senza farci influenzare da tutti questi fattori eventuali. Ho solamente detto a loro di stare tranquilli, perché comunque è una partita e in una partita può accadere di tutto, quindi anche se tu devi cercare di recuperare è una partita solo. È chiaro che in una serata così bisogna avere anche un po' di sorte dalla tua e essere forti, sappiamo che non possiamo concedere tanto e quindi dobbiamo essere bravi anche a difendere bene, non solo ad attaccarli, non pensare che dobbiamo fare 2, 3 gol, 4 gol, assolutamente, loro devono stare tranquilli e giocare la partita al massimo delle proprie possibilità. Siamo ancora qui, ancora qui a volercela giocare, siamo ancora qui con la convinzione di giocarcela, siamo ancora qui a giocarcela proprio nel vero senso della parola. Sono carica al 100% per dare tutto in campo e vincere l'Europa League, il campionato e anche la Coppa. Abbiamo sentito tutti e cinque gli allenatori impegnati oggi: Garcia, Montella, Mancini, Ventura e Benitez, nell'ordine. Io ho citato lunedì Luca Valdiseri, inviato del Corriere della Sera, perché era stato molto duro dopo Roma-Sampdoria. Ciao Luca. Eccomi, buongiorno. Eccolo. Molto duro dopo quella partita, bastava leggere le pagelle. 3 a Garcia, se non ricordo male, insieme a Gervinho e ai Turbe, giusto? Non mi sbaglio. Giusto. Tendenzialmente do voti più umani, però personalmente quella è stata secondo me una partita veramente molto molto preoccupante, anche se ho sentito tanti dire che è stata una delle meno peggio. Per me, se prendi un gol come il primo gol della Roma, difesa schierata con Eto'o, che fino a quel momento era stato un uomo in meno, lo fai sembrare Robben, gli fai saltare tre birilli e arrivare fin sul fondo e crossare. Il secondo gol in cui la palla resta nell'area della Roma a un minuto, diventa difficile, cioè, dare voti più alti. Però non si capisce, Luca, come una squadra che sembra sbriciolata nel suo interno, perché questa è la mia sensazione, possa eliminarne stasera alle 19 una che sta bene come la Fiorentina. Ma ha detto bene Montella, la squadra che sembra morta e sepolta è seconda in campionato, che vuol dire che i valori ci sono, poi sono punti che sono stati fatti nel girone d'andata, non c'è dubbio, però il valore della Roma secondo me è superiore a quello della Fiorentina. In questo momento la Fiorentina sta meglio, ha fatto un mercato di gennaio intelligente, la Roma invece ne ha fatto uno da suicidio, però sono due squadre che si equivalgono, ma lo dicono i risultati, non io, no? Una vittoria ciascuno, due pareggi, quattro gol fatti e quattro subiti. La Roma ha un piccolissimo vantaggio, che anche se è molto difficile farlo, ma può giocare anche per lo 0-0, può pareggiare anche 0. Luca, secondo te le parole di Garcia alla vigilia, che in parte abbiamo sentito, ma sono un ritornello che torna nelle ultime settimane, sono una sorta di passo da Dio? Hanno questo, il sapore del passo da Dio? No, questo è esagerato. Non hanno il sapore del passo da Dio, ma vogliono dire qualcosa, perché se tu hai un contratto fino al 2018 e rimaneri in un posto e stai bene in un posto, non c'è bisogno che tu ripeta sempre che gli allenatori sono persone che vivono con la valigia in mano, eccetera, eccetera. Se tu dici se è un problema me ne vado, vuol dire che senti che probabilmente la società non ti sta difendendo come pensavi tu. Quello sì, quello può essere. Ultima cosa, per le partite di stasera, Fiorentina-Roma una passa, poi servono due remontate e una partita attenta per il Napoli. Tu come vedi questo destino? Io sbaglio sempre i pronostici, però penso che il Napoli non abbia problemi, che l'Inter ha bisogno di un miracolo, i miracoli si chiamano così proprio perché succedono una volta ogni tanto, che il Torino non abbia quasi chance, ne abbiamo veramente pochissime, e che Roma-Fiorentina sarà una bruttissima partita per un'ora, in cui tutte e due le squadre non giocheranno per vincere, ma per non prendere gol, e poi l'ultima mezz'ora probabilmente sarà una gran partita. Grazie Luca, ciao. Lavoro. Ciao, ciao Luca Valdiserri. Mi ha raggiunto Giacomo Bagnasco, buongiorno Giacomo. Buon pomeriggio a tutti. Faccio sentire una cosa. Resta un pochino l'amarezza di non aver approfittato di questa splendida occasione che ci è capitata, perché credo che in assoluto questa sia la peggior Francia che sia mai venuta all'Olimpico, anche peggiore di quella che ha perso qui. Dunque, se perdiamo 29-0 dalla Francia peggiore, la Francia chissà cosa peggiore. Siamo noi. No, chissà se venisse una Francia appena un po' più agguerrita. Ovviamente abbiamo cambiato argomento, tanto calcio, torniamo domani, Europa League, Champions League, goofy, mica goofy, eccetera, perché c'è il Galles per terminare questo giro, e un Galles che arriva a Roma, che vuole vincere Sei Nazioni contro un'Italia, appunto, reduce la vittoria in Scozia, una pessima figura contro la Francia, e il Galles cercherà di fare tanti punti. Sì, il Galles gioca per primo, una differenza punti peggiore sia dell'Irlanda che dell'Inghilterra, che giocano dopo rispettivamente in Scozia e in casa con la Francia, quindi il Galles dovrebbe cercare di vincere con uno scarto amplissimo. A questo punto io ti dirò che penso che l'Italia, partendo sfavorita e con tutta probabilità perdendo dal Galles, giocherà una partita migliore di quella giocata con la Francia. Lo chiediamo a Edo Gori? Lo chiediamo a Edo Gori, ben volentieri. Ciao Edo, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, hai sentito Giacomo Bagnasco? Ho sentito, sì. Cosa ne pensi? Cosa ne penso? Probabilmente ragione, quando abbiamo un po' meno pressione riusciamo sempre a fare partite migliori. Sicuramente sarà durissima contro il Galles, come avete detto voi. Loro se la giocano per vincere il Sei Nazioni e devono fare tanti più punti possibili. E noi che c'entra, vogliamo vincere anche noi questa partita, cercheremo e faremo di tutto per mettere i bastoni fra le ruote. Però ho visto una squadra molto motivata questa settimana per rifarci della settimana scorsa, che non è stata molto all'altezza della situazione della partita. Ma cosa è successo lì? Cioè, con quella che abbiamo sentito Munari definire la Francia peggiore, cosa ha detto Giacomo, di tutti i tempi della storia del millennio? La peggiore che abbiamo affrontato. Cos'è? La peggiore che abbiamo affrontato nella storia del millennio. Non puoi dire così, perché sappiamo tutti che un grande nemico è un grande onore, se lo definiamo così poi sembra che facciamo figuracce. Ha detto Munari, l'avrai sentita la telecronaca. Lo so, l'ha detto Munari. Ma che è successo lì? È stata un po' una settimana molto strana, perché ci sono allenati molto bene, eravamo veramente pronti e anche i 30 minuti si è visto che eravamo all'altezza della situazione. Poi abbiamo avuto molti infortuni durante la settimana, anche cose veramente particolari, perché Aimon, che doveva giocare titolare, ha preso una grande botta alle parti basse durante l'allenamento e ha dovuto saltare la partita, che Allan ha avuto una storta una settimana, non si è mai allenato e dopo, durante il riscaldamento della partita, si è stirato la coscia. Il povero Luciano Orchera, con cui ho giocato tante partite, ha fatto mezzo allenamento durante la settimana perché è arrivato il giovedì sera come rientrante per gli infortuni, e non è facile affrontare una partita del Sei Nazioni senza prepararla, e sicuramente è stata una chiave della partita. Poi primi minuti subito Allan fuori, entra Lucio, si è fatto male Manda, Agüero, il pilone, è stato un po' particolare. Il tempo sicuramente non ci ha aiutato a dare il massimo, sì, lo so, sembrano tanti alibi. Però sono, è la cronaca un po' di quello che è successo. È la cronaca che è successo, e non siamo riusciti mentalmente a riportare la partita dalla nostra parte, perché ho detto, i primi 30 minuti secondo me abbiamo fatto un ottimo rugby e poi ci siamo persi completamente. Giacomo. Sì, detto questo, Edoardo, che peraltro tutti chiamano Ugo, sicuramente converrà sul fatto che è stata una prestazione non degna del livello internazionale del Sei Nazioni. Sicuramente. Ugo, allora continuiamo a chiamarlo così, è uno dei cinque giocatori che sono sempre partiti titolari insieme a McLean, Morisi, Furno e Ghiraldini, che sarà il capitano sabato perché manca Paris. Quella di Paris è una delle mancanze più importanti, viene sostituito da Vunisa come numero 8, passa Vunisa da 7 a 8 e in terza linea entra Mauro Bergamasco. All'apertura torna Imona, cambiano i piloni, Castro Giovanni e Rizzo quindi che prendono il posto di Aghero e Chistollini. Però per Bergamasco spenderei, Ugo, una parola in più, perché Bergamasco, che aveva esordito nel Sei Nazioni con la prima partita dell'Italia nel torneo, vinta 34-20 con la Scozia, domenica arriva come sabato arriva come longevità nel Sei Nazioni a 15 anni e 44 giorni. È incredibile. Dal 1883 a oggi, nel torneo, nelle varie versioni, 4, 5, 6 Nazioni, nessuno ha fatto così. Sì, è incredibile. Questo dimostra il valore del giocatore che è, ma non soltanto proprio a livello rugbyistico, ma a livello atletico, perché come sapete bene, il rugby è uno sport molto, molto duro fisicamente, che ti logora negli anni, soprattutto il ruolo che è il suo, che è a terza linea, è veramente probabilmente uno dei più faticosi. Per cui tanto di cappello a Mauro, alla sua eccezionale carriera, perché è un giocatore incredibile, Grazie Ego. Grazie a voi. Edo, grazie Ugo, a voi. Gori. Edo, Ugo, Gori. Chi vince Sei Nazioni? Ma io penso che lo vincerà l'Inghilterra alla fine. Però mentre il Galles è molto decisamente favorito con l'Italia, non sarei del tutto sorpreso se un'altra delle due capoclassifica, cioè l'Irlanda in Scozia o l'Inghilterra in casa con la Francia, finisse per perdere. Speriamo che la Scozia non batta l'Irlanda, perché sennò finiamo all'ultimo posto. Anche se ci salva il successo in Scozia. Il successo in Scozia è stato un bel successo. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Ragazzi, noi chiudiamo qui, torniamo domani. Ovviamente torneremo sulla Juventus, andremo sul Parma. Non ci sono, a proposito, chiedo all'ultimo al volo, notizie sul Parma non ce ne sono. Allora, c'è stata l'udienza fallimentare questa mattina, preudienza, poi adesso siamo in attesa della sentenza. Ha parlato un esponente del collegio sindacale dicendo: non abbiamo nulla in contrario al fallimento, ci mancherebbe altro, però siamo ancora in attesa pure su quel fronte. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione. Ciao a tutti. Grande mischia, Flipper impazzito.